Eccoci finalmente tornati, pronti per questo collegamento che abbiamo già ampiamente annunciato. Domani assemblea pubblica alle ore 18 al Corso Italia numero 108, è un'occupazione del coordinamento cittadino di lotta per la casa, per parlare e lanciare soprattutto l'appuntamento del 9 febbraio a Teramo, un corteo in solidarietà con i condannati del 7 gennaio per i fatti del 15 ottobre. Siamo al telefono con un compagno di evasioni che si sta occupando, insieme chiaramente a tutta la rete, ricostruire i fili della solidarietà riguardo le vicende processuali del 15 ottobre, non solo, a cui diamo il buongiorno. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Allora, dunque, all'inizio, insomma, dopo le condanne del 7 gennaio c'è stato così un momento chiaramente di sbandamento, non so come chiamarlo, perché è sembrato insomma che non si riuscisse a reagire con la giusta temperanza, diciamo, rispetto a queste condanne chiaramente pesantissime e che forse hanno generato anche, no, un po' di inquietudine, però poi fortunatamente la prima indicazione l'hanno data i teramani stessi con l'indizione di questo corteo. E beh, è importante insomma quantomeno che ci si provi, no, a costruirgli questi appuntamenti e che magari anche realtà per realtà, città per città, ci si organizzi per andarci nella maniera migliore, no? Sì, esatto, queste condanne le più alte finora arrivate per i fatti del 15 ottobre, lo ricordo sempre, ci sono stati diversi compagni e compagne, ma anche ragazzi magari non militanti che hanno partecipato a quella manifestazione, sono stati arrestati o messi ai domiciliari o con l'obbligo di firma, diverse misure repressive che sono stati condannati, hanno subito durante questo anno e mezzo trascorso diverse condanne con diversi anni, alcuni già solo in primo grado, altri anche con l'appello. Una situazione piuttosto complicata che come rete evasione abbiamo seguito e raccontato durante tutto questo periodo. È arrivato il processo ai compagni dell'azione antifascista Teramo, sono stati condannati appunto a 6 anni lo scorso 7 gennaio, una condanna prevedibile dopo la richiesta di 8 anni fatta dal pubblico ministero, dalla Procura della Repubblica di Roma e dal pool antiterrorismo in particolare che si occupa dei fatti del 15 ottobre. Per fortuna questa volta finalmente c'è stata una reazione sia da parte dei compagni di Teramo in primis che un po' da diverse realtà antagoniste di tutta Italia, una reazione, dicevo, un po' più determinata sia nei diversi comunicati arrabbiati e di solidarietà che sono usciti, sia nel fatto che alla proposta dei compagni di Teramo di fare una manifestazione nazionale a loro città, piano piano stanno rispondendo compagni e compagne da tutta Italia con l'intenzione di andare a Teramo e di manifestare la solidarietà verso i compagni condannati e la rabbia verso la procura, lo Stato che li ha condannati. Finalmente insomma una risposta di piazza che va oltre i presidi che abbiamo organizzato quest'anno spesso in pochi sotto il Tribunale di Roma a Piazzale Clodio. Una risposta direi necessaria, visto che appunto da un anno a questa parte fioccano condanne su condanne, se non nel silenzio comunque con poche voci e spesso isolate se non stigmatizzate all'interno dello stesso cosiddetto movimento. È chiaro insomma comunque che quella giornata evidentemente si porta appresso ancora tutta una serie di così chiamiamole incomprensioni, ma in realtà si potrebbero definire anche in tutt'altro modo, perché lo sappiamo, ha generato lacerazioni e rotture anche, ed evidentemente insomma il ritornare a parlarne implicherebbe anche un minimo di dibattito e presa d'atto di ciò che è stato e di come poi tutte le differenti realtà insomma si sono poste di fronte a quella giornata, no? Dopodiché è chiaro che c'è la questione della solidarietà, della necessaria vicinanza a chi sta pagando per tutti, e forse questa in un modo o nell'altro porta a così scavalcare insomma necessariamente, a bypassare anche tutte le implicazioni di quella giornata per costruire gli appuntamenti di solidarietà. Peraltro è importante insomma che questi ci siano, perché insomma le vicende processuali attorno al 15 ottobre sono tutt'altro che terminate con le condanne del 7 gennaio. Eh già, innanzitutto perché ovviamente ci sono ancora processi d'appello per alcuni compagni e compagne che sono stati arrestati e già condannati in primo grado, fra cui compagni di Teramo che fra qualche mese dovranno sostenere il processo d'appello, perché oltre alla condanna a 6 anni ricordo che sono stati condannati anche alle spese di 30.000 euro cada uno verso il Ministero della Difesa, in particolare l'Arma dei Carabinieri, che presumo insomma per come sono fatti di carattere insisteranno nell'avere questi 30.000 euro da ogni condannato. In più anche l'AMA si sta costituendo parte civile ed è in discussione se faranno anche loro una richiesta di risarcimento danni. La novità proprio di questi giorni, ahimè, è che sono arrivate 25 notifiche a 25 compagni e compagni per l'avviso di chiusura delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma, da parte del Pool Antiterrorismo, che chiedono il rinvio a giudizio per 25 compagni per il reato di concorso in devastazione e saccheggio. E questi compagni e compagne erano già stati alcuni condannati in primo e secondo grado per resistenza aggravata per i fatti del 15 ottobre, altri erano stati messi ai domiciliari, altri avevano l'obbligo di firma, a diverso titolo erano già tutti in questa mega inchiesta sui fatti del 15 ottobre, e alcuni di loro si trovano ancora agli arresti domiciliari come Giovanni Caputi, che molti ricorderanno, giovanissimo compagno barese che è stato per mesi e mesi ospite, suo malgrado, del carcere di Regina Coeli e poi di quello di Velletri. Altri sono compagni che hanno ricevuto invece una denuncia a piede libero. Tutti e 25 la procura ne chiede il rinvio a giudizio, dicevo, con il reato di concorso in devastazione e saccheggio, quindi l'accusa diventa assai più pesante rispetto alla resistenza aggravata, e per cui ci aspetta adesso di verificare se ci sarà un effettivo rinvio a giudizio, come ovviamente si teme, perché è difficile, visto l'orientamento del Tribunale di Roma in questo anno sui fatti del 15 ottobre, e se ci sarà per tutti e tutte o meno. Comunque un nuovo pesante segnale e attacco da parte della Procura di Roma verso diversi compagni e compagne, e per questo, oltre che per Teramo, si è deciso di lanciare questa assemblea pubblica cittadina di domani affinché questi 25 compagni e compagne non vengano lasciati soli, si costruisca un meccanismo di solidarietà sia legale sia politica, umana, affinché se verranno rinviati a giudizio ci sia una mobilitazione reale, forte e soprattutto costante, affinché non si ripetano errori del recente passato, che poi io sto in fissa con la numerologia, dico che questo numero 25 ai compagni che hanno memoria ricorderà qualcosa di abbastanza chiaro, insomma, ovvero Genova. Certo, beh sì, senz'altro, anche perché purtroppo appunto i capi di imputazione a questo punto sono analoghi e dunque la preoccupazione aumenta. Peraltro insomma nelle settimane passate in rete si è anche scritto e commentato anche sotto il piano delle scelte legali rispetto ad esempio alla questione del rito abbreviato con cui i cinque teramani di Azione Antifascista hanno scelto come percorso insomma difensivo, diciamo, ma ecco, al di là di questo è emerso quanto in quel processo le difese da parte degli avvocati non sono state affatto prese in considerazione, cioè come se non avessero parlato. Peraltro mi pare che fossero difesi da avvocati diversi, insomma le circostanze attenuanti non sono state affatto considerate, insomma. Sì, diciamo che in questo processo, come in generale negli altri, il Tribunale di Roma non ha ascoltato e accolto molto le difese dei diversi legali che hanno assistito gli imputati. Questa scelta di portare avanti il rito ordinario consigliata dagli avvocati e ai compagni di Teramo ha lasciato tutti un po' perplessi, soprattutto il rito abbreviato, scusate, soprattutto perché anche nei precedenti processi dove sarà fatto il rito abbreviato le condanne erano state molto alte, perché è evidente anche al più sprovveduto che il clima politico in cui si svolgono questi processi, con una procura molto determinata e un tribunale piuttosto accogliente a quelle richieste, portano a questo tipo di risultati, a condanne pesanti. Ahimè, viviamo in una situazione in cui quel che resta del movimento è estremamente frammentato, le scelte legali spesso non sono condivise, non c'è una riflessione approfondita politica, non ci sono collegi difensivi unitari, per cui nonostante i tentativi di costruire ciò, ovviamente poi le scelte stanno ai singoli compagni e alle singole compagne, su cui uno può intervenire fino a un certo punto, e i risultati ahimè sono sotto gli occhi di tutti, il che non abbiamo certo la controprova. Io non voglio dire che se fosse stato fatto il rito ordinario con un collegio difensivo di compagni, avvocati, esperti sulle questioni degli scontri di piazza, le cose sarebbero andate diversamente. Io non ci posso mettere la mano sul fuoco, perché magari il tribunale andava giù pesante comunque. In generale però l'assenza di un movimento unito, coeso nel difendere gli arrestati, denunciati della manifestazione del 15 ottobre ha fatto sì che questi spesso, perché quei compagni di Teramo poi sono compagni militanti conosciuti, ma tanti altri erano giovanissimi compagni con poca esperienza politica, nessuna partecipazione militante a strutture cittadine o nazionali, ha fatto sì che trovandosi da soli con le pressioni della famiglia, che vi lascio immaginare, abbiano fatto delle scelte di difesa legale poco opportune. Così, per essere moderato, insomma, utilizzo questo termine. E anche con i compagni di Teramo, sia il sottoscritto che altri hanno fatto una riflessione sul comprendere che quello che si stava svolgendo a Roma era un processo politico, pienamente politico, e come tale andava affrontato, e ci auguriamo che in vista dell'appello lo si affronti per quello che è, sia con una campagna politica di solidarietà, sia con una difesa legale attenta al clima dentro e fuori il Tribunale di Roma. Eh sì, sei stato chiarissimo. Lasciami anche fare un'osservazione, Marco, di questa, insomma, come dire, me ne assumo un po' le responsabilità, nel senso che poi proprio sulla base di quanto tu dicevi, e cioè questo clima di sfilacciamento, è purtroppo la difficoltà, insomma, nel costruire e portare avanti campagne tese, diciamo, a non far mancare l'appoggio e il sostegno necessario a chi è denunciato per i fatti di piazza del 15 ottobre, ma in realtà poi ci stanno anche tante altre denunce per altre questioni. Io credo che poi anche l'atteggiamento, insomma, e le iniziative intraprese dagli stessi condannati, dai compagni di Teramo, che qualcuno, molti probabilmente, insomma, avranno anche interpretato, non so, come segni, così, non so se definirli di cedimento, insomma, no? Parlo della lettera al Presidente della Repubblica. Un po' però io mi sento di dire che sono imputabili per l'appunto a questa situazione in cui di fatto un po' l'isolamento regna, insomma. Non mi sentirei francamente da questo punto di vista di responsabilizzare più di tanto i compagni stessi che stanno scegliendo magari percorsi che è vero, sanno un po' anche di ricerca individuale, diciamo, no? Di una così solidarietà piuttosto che collettiva, ma così stigmatizzarli alla fine, non so, diventa anche un po' perdente, considerando il fatto che le responsabilità sono credo attribuibili al movimento nel suo complesso, no? Sì, sono assolutamente d'accordo, nel senso che io, insomma, molti di questi compagni, sia di Teramo che altri, personalmente, avendoci un rapporto di conoscenza, così, gli ho mosso delle critiche, gli ho detto delle cose, sempre nel rispetto del comprendere che quei compagni, o giovani compagni, sono isolati, sono in difficoltà e che sono stati condannati, per cui se ci sono stati degli errori l'hanno pagati in prima persona, non è che l'hanno delegati a qualcun altro, per cui la responsabilità c'è, quella individuale, perché altrimenti azzereremmo la coscienza delle persone. Io ci credo che esista una responsabilità individuale e va sottolineata, dopodiché è evidente che c'è una responsabilità collettiva maggiore, perché se il movimento dopo il 15 ottobre, al di là, e questo lo penso da tempo, l'abbiamo detto come Rete Evasioni, ma l'hanno detto anche tanti compagni e compagne della radio di diverse situazioni, nessuno si deve attaccare ovviamente una medaglietta in questo senso, dicevo che se ci fosse stata, al di là degli scazzi, discussioni, tu hai sbagliato di qua, tu hai sbagliato di là, tu hai sbagliato di sopra, comunque una difesa dei ragazzi, dei compagni, delle compagne arrestati e processati unitaria sarebbe stata la cosa migliore. Purtroppo non si è riusciti a fare un passo avanti nel dire ok, se dobbiamo litigare si litiga a porte chiuse tra compagni e compagni, ma poi i processi ci andiamo tutti insieme e si solidarizza con chi è stato arrestato, spesso anche in situazioni veramente ridicole, con accuse fantasmagoriche. È quello che mi fa arrabbiare, che tanti compagni non hanno capito che i ragazzi giovani arrestati quel giorno hanno espresso una rabbia, si sono trovati in quella situazione, hanno pagato duramente e andavano sostenuti. Da tempo sostengo, e tanti penso che sosteniamo, che al di là delle differenze politiche e delle divisioni che esistono tra militanti, attivisti, situazioni collettive, situazioni strutturate o meno, quando ci si trova di fronte ai processi, quando ci si trova di fronte alla repressione, bisognerebbe fare un passo in avanti e dire ci si difende tutti insieme. Mi auguro che questa cosa del 9 a Teramo, visto i commenti che ho letto in giro, i comunicati, sia un passo in questo senso. Mettiamo da parte discussioni, liti, che io non dimentico, sia chiaro, me le ricordo, però a fronte di un attacco così duro, che ci sia una difesa il più forte e ampia possibile, che i compagni di Teramo in questo caso non siano lasciati soli. Benissimo, ecco, peraltro, insomma, questo così per cercare di dare una informazione a 360 gradi, diciamo, è comparso ieri questo articolo su un quotidiano online di Teramo, Global Il Centro, così ecco lo diciamo proprio menzionandolo, che ci sarebbe anche un altro teramano indagato e forse insomma fino adesso non era stato conteggiato insomma rispetto a quelli già condannati, sembra appunto che ci sia anche questa sesta persona che ha ricevuto l'avviso di conclusione indagini da parte della procura, per cui ci dovrebbe essere richiesta di giudizio immediato, quindi comunque questa macchina repressiva insomma non si ferma, anzi in un certo senso è scalpitante più che mai, e quindi tutte le osservazioni che abbiamo fatto finora insomma sono senz'altro quelle necessarie per andare nella direzione auspicabile, cioè quella appunto di costruire una mobilitazione forte a partire da questo corteo del 9 febbraio. Domani quindi ricapitoliamo l'appuntamento romano, Marco? Sì, domani alle ore 18, assemblea pubblica cittadina presso l'occupazione del coordinamento di lotta per la casa di Porta Pia in Corso Italia 108, alle ore 18 cerchiamo di essere puntuali. Va benissimo, grazie, grazie per tutto. Grazie a te, ciao a tutti e tutti.